Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Appena il primo albore filtrò lieve attraverso le foglie coriacee del fico selvatico in fondo alla vigna, Mauro Mortara, che vi stava sotto, con le spalle appoggiate al tronco, aggrottò le ciglia, ritirò le braccia e stirò la schiena rugliando. Poi s'allargò tutto in un lungo sbadiglio e si rilassò, richiudendo gli occhi come a cercar di nuovo il tepido buio del sonno. Ma udì un gallo cantare da un'aia lontana, un altro da più lontano rispondere. Udì un frullo d'ali vicino e si riscosse. I tre mastini, accucciati sotto l'albero intorno a lui, lo guardavano con occhi umidi, intenti, salutandolo amorosamente con la coda. Ah, la sua bella vigna! Forse il vino di quell'anno lo avrebbe ancora bevuto, ma quello dell'anno venturo? Diede una spallata come per dire, oh, alla fin fine! E tornò a sbadigliare a quella prima luce del giorno, che pareva provasse pena a ridestare la terra alle fatiche. Tuttavia, da due giorni Mauro Mortara era meno aggrondato. Guardava ancora in cagnesco la villa, ma poi, pensando che Flaminio Salvo ogni mattina a quell'ora se ne partiva in carrozza o per Girgenti o per Porto Empedocle e che non vi ritornava se non a tarda sera, tirava un sospiro di sollievo, come se la vista del cascinone gli diventasse più lieve, sapendo che colui non c'era. Vi rimanevano, sì, coi servi, la moglie e la figliuola, ma quella una povera pazza, tranquilla e innocua, e questa pareva impossibile, questa quantunque figlia di quel malo cristiano non era cattiva, no, anzi. E Mauro, senza volerlo, volse in giro uno sguardo per vedere se donna Dianella fosse già per la vigna. In pochi giorni, da che era a Balsania, si era rimessa quasi del tutto. Si levava per tempo ogni mattina, aspettava che il padre partisse con la carrozza e veniva a raggiungere lui, là, per la vigna, e gli domandava tante cose della campagna. In pochi giorni, Dianella aveva fatto il miracolo. L'orso era domato. L'aria del volto, la nobiltà gentile eppure altera del portamento, la dolcezza mesta dello sguardo e del sorriso, la soavità della voce, avevano fatto il miracolo, pianamente, naturalmente, andando incontro e vincendo la ruvidezza ombrosa del vecchio selvaggio. Parlando, a volte ella aveva nella voce e negli sguardi certe improvvise opacità, come se di tratto l'anima le si partisse dietro qualche parola e le andasse lontano, lontano, chissà dove. Smarrita, se tardava a ritornarle, domandava «Che dicevamo?» e sorrideva, perché lei stessa non sapeva spiegarsi ciò che le era avvenuto. Flaminio Salvo scendeva la scala della villa per montar sulla vettura già pronta, quando Leonardo Costa sbucò dal sentieruolo a ponente di tra gli olivi, gridando «Ferma! Ferma!» «E che cos'è?» domandò il Salvo con un soprassalto. «Bacio le mani a Vossignoria!» disse il Costa, togliendosi il cappellaccio e accostandosi senza più fiato e tutto grondante di sudore. «Non la posso più! Volevo venire stanotte!» Ma poi, ma che cosa? Che cos'è? Ma che hai? Lo interruppe brusco il Salvo. Ad Aragona, a Comintini, tutti i solfarai. Sciopero! Annunziò il Costa. Flaminio Salvo lo guardò con freddo cipiglio, lisciandosi le lunghe basette grigie che, insieme con le lenti d'oro, gli davano una certa aria diplomatica, e disse sprezzante: «Questo lo sapevo. Il signore, ieri sera, sul tardi, riprese il Costa, è arrivata a Porto Empedocle gente da Aragona ed ha raccontato che tutto ieri hanno fatto l'ira di Dio nel paese. I solfarai? Sì, signore, picconiere, carosi, calcheronai, carrettieri, pesatori, tutti. Hanno finanche rotto il filo telegrafico. Dice che hanno assaltato la casa di mio figlio e che Aurelio ha tenuto testa come meglio ha potuto». Flaminio, salvo a questo punto, si voltò a spiare acutamente gli occhi di Dianella, che s'era accostata alla vettura. Quello sguardo strano, rivolto alla figlia a mezzo del discorso, frastornò il Costa, il quale si voltò anche lui a guardare la signorinella, come egli la chiamava. Questa, da pallida, si fece vermiglia, poi subito pallida di nuovo. «E dunque?» gridò Flaminio Salvo con ira. «E dunque, sì, signore», riprese il Costa sconcertato, «guaio grosso, non c'è soldati, il paese nelle loro mani, due carabinieri sole, il maresciallo e il delegato. E che possono fare?» «E che posso fare io di qua, me lo dici?» gridò il Salvo su tutte le furie. «Tuo figlio ha un ingegnere direttore venuto dall'École des Mines di Parigi. Che cos'è, una marionetta? Ha bisogno che gli diri io il filo di qua, per farlo muovere!» «Ma no, signore», disse Leonardo Costa, ritraendosi d'un passo, come se il Salvo lo avesse sterzato in faccia. «Ma posso assicurare, signoria, che mio figlio Aurelio sa quello che deve fare. Testa e coraggio. Non tocca a dirlo a me, ma di fronte a 2000 uomini, tra solfarai e carrettieri, mi dica, vossignoria. Del resto, il guaio è un altro, fuori del paese. Aurelio ha mandato ad avvertirmi ieri sera che quelli hanno catturato per lo stradone gli 8 carri di carbone che andavano nel zolfare di Montetiesi.» «Ah, sì», fece il Salvo, sghignando. «E vossignoria sa», seguitò il Costa, «che il carbone lassù, per le pompe dei cantieri, è come il pane per i poverelli, e anche più necessario. Vossignoria va a Girgente, e vada subito dal prefetto, perché mandi soldati alla stazione d'Aragona, quanti più può, per fare scorta al carbone fino alle zolfare. Ci sono 7 vagoni pieni per rinnovare il deposito. I carrettieri sono in sciopero anch'essi. Ma il carbone si potrà caricare sui muli e sugli asini scortati dalla forza. Ci metteranno più tempo, ma almeno si potrà scongiurare il pericolo che la zolfara grande, la cace, Dio liberi, s'allaghi.» «Sallaghi, sallaghi e sallaghi!» scattò furente Flaminio Salvo, levando le braccia. «Ma vada tutto alla malora, ma non mi importa più niente a me. Io chiudo, sai, e mando tutti a spasso, te e tuo figlio, e tutti, dal primo all'ultimo, tutti! Caccia via, andiamo!» ordinò al cocchiere. La carrozza si mosse e Flaminio Salvo partì, senza neppure voltarsi a salutare la figlia. Alla sfuriata e insolita, Don Cosmo s'era affacciato a una finestra della villa e donna Sara Alaimo s'era fatta sul pianerottolo della scala. L'uno e l'altra, e giù Dianella e il Costa, rimasero come intronati. Il Costa alla fine si scosse, alzò il capo verso la finestra, li salutò amaramente. «Bacio le mani, Don Cosmo. Ha ragione lui. È il padrone. Ma per quel Dio messo in croce, creda pure, sì, Don Cosmo mio, creda, signorinella, non sono prepotenze. La fame è fame, e quando non si può soddisfare...» Dianella non s'affrettò quella mattina a raggiungere Mauro alla vigna. Quello sguardo duro del padre nell'ira, mentre il Costa parlava del pericolo da cui il figlio era minacciato in Aragona, le aveva in un baleno richiamato alla memoria un altro sguardo di lui di tanti anni addietro, quando il fratellino era morto e la madre impazzita. Aveva 11 anni lei allora, E più della morte del fratello, più della sciagura orrenda della madre, le era rimasta indelebile nell'anima l'impressione di quello sguardo d'odio che a lei, ragazzetta ancor quasi ignara, incerta e smarrita tra i giuochi e la pena, aveva lanciato il padre nel cordoglio rabbioso. «Non potevi morire tu, invece!» le aveva detto chiaramente quello sguardo. «Così, proprio così!» E Dianella comprendeva bene adesso perché il padre non avrebbe esitato un momento a dar la vita di lei in cambio di quella del fratello. Tutte le cure e l'affetto e le carezze e i doni di cui egli l'aveva poi colmata non erano più valsi a scioglierle dal fondo dell'anima il gelo in cui quello sguardo s'era quasi rappreso e indurito. Spesso se n'adontava con se stessa, sentendo che il calore dell'affetto paterno non riusciva più a penetrare in lei, quasi respinto istintivamente da quel gelo. Ma per qual ragione seguitava egli ormai a lavorare con tanto accanimento, ad accumulare tanta ricchezza? Non per lei, certamente, sì, per un bisogno spontaneo, prepotente della sua stessa natura, per dominare su tutti, per essere temuto e rispettato, o forse anche per stordirsi negli affari, o per prendersi a suo modo una rivincita sulla sorte che lo aveva colpito. Ma in certi momenti di ira, come dianzi, o di stanchezza o di sfiducia, lasciava pur vedere apertamente che tutte le sue imprese e i suoi sforzi e la sua vita stessa non avevano più scopo per lui. Perduto l'erede del nome, colui che sarebbe stato il continuatore della sua potenza e della sua fortuna. Da un pezzo, convinta di questo, Dianella, pur non sapendo neanche immaginare la propria vita priva di tutto quel fasto che la circondava, aveva cominciato a sentire un segreto dispetto per quella ricchezza del padre di cui un giorno, e il più lontano possibile, ella sarebbe stata l'unica erede, per forza e senza alcuna soddisfazione per lei. Quante volte, nel vederlo stanco e irato, non avrebbe voluto gridargli «Basta, lascia! Perché la cresce ancora, se deve essere poi questa la fine?» E altro ancora, ben altro, avrebbe voluto gridargli se, con l'anima, avesse potuto arrivare all'anima del padre senza che le labbra si muovessero e udissero gli orecchi. Da quanto aveva potuto intendere col finissimo intuito e penetrare con quegli occhi silenziosamente vigili e da certi discorsi colti al volo senza volerlo, aveva già coscienza che la ricchezza del padre, se non al tutto male acquistata, aveva pur fatto molte vittime in paese. Crudele con lui la sorte, crudele la rivincita che si pretendeva su essa. Voleva tutto per sé, tutto in suo pugno, zolfare e terre e opifici, il commercio e l'industria dell'intera provincia. Ora, perché gravare sulle esili spalle di lei, figlia sì amata, ma non prediletta, quantunque rimasta sola, il fardello di quelle ricchezze che molti forse maledicevano in segreto e che certo non le avrebbero portato fortuna? Eppure, s'era illusa fino a poco tempo fa che il padre l'avrebbe lasciata libera nella scelta, che anzi egli stesso l'avesse aiutata a scegliere, beneficiando colui che, da ragazzo, gli aveva salvato la vita. Bruno, come fuso nel bronzo, coi capelli ricci, neri e gli occhi fermi e seri, a Aurelio Costa le era apparso la prima volta a 13 anni. Era stato poi per tanto tempo suo compagno di gioco, suo e del fratellino. Tutti e tre ragazzi non capivano allora che differenza fosse tra loro. A 18 anni Aurelio era poi partito per iscriversi all'Università di Palermo, nella facoltà di ingegneria. Senza più lui, la casa per tanti mesi era rimasta per lei come vuota. Aveva l'impressione di quella sua prima solitudine, come se avesse passato tutto un inverno interminabile con la fronte appoggiata ai vetri di una finestra su cui le gocce della pioggia scorrevano come lacrime, su cui qualche mosca superstite, morta di freddo, rimaneva attaccata e lei, con un dito, toccandola appena, la faceva cadere. Forse da allora la sua fronte, per il contatto di quei vetri gelati, le era rimasta così, come fasciata di gelo. Ma che esultanza, poi, al ritorno di lui, finito l'anno scolastico! Era stata così vivace e piena di giubilo quella festa che il padre, appena andato via Aurelio, se l'era chiamata in disparte e piano piano, con garbo, carezzandole i capelli, le aveva lasciato intendere che sarebbe stato bene frenarsi, perché era ormai un giovinotto quel suo antico compagno di giuoco a cui non bisognava più dare del tu. Senza saperne bene il perché, lei s'era fatta di brace. Dio, e come allora del lei? Non era più lo stesso Aurelio? No, non era più lo stesso Aurelio, neanche per lei, e se n'era accorta sempre di più di anno in anno, ai ritorni di lui, finché all'ultimo, presa la laurea, egli aveva manifestato l'intenzione di concorrere a una borsa di studio all'estero. Lui, proprio lui, non era più lo stesso. Perché lei, invece, sì, con la bocca, signor Aurelio, ma con gli occhi, seguitava a dargli del tu. E tuttavia non s'era perduta. Aveva fatto, anzi, tanto più certo in sé il suo sentimento, quanto più incerta era rimasta sul conto di lui. Era sicura, superstiziosamente, che egli le fosse destinato. S'era maggiormente raffermata in questa speranza pochi mesi fa, quando Aurelio, ritornato dalla Sardegna, era stato assunto dal padre alla direzione delle zolfare. La gioia di rivederlo le s'era però d'un subito offuscata al sopravvenire di Nicoletta Spoto, da un anno appena moglie del capolino. Aveva notato uno strano imbarazzo, un vivo turbamento, tanto in costei quanto in Aurelio, allorché questi, introdotto nel salone, s'era inchinato a salutare. Poi, appena il padre aveva condotto via con sé nello studio Aurelio, la capolino, rifiatando, aveva narrato con focosa vivacità a lei e alla zia Adelaide che quel poveretto lì, tutto impacciato, aveva nientemeno osato di mandare a chiederla in sposa, subito dopo ottenuto il posto di ingegnere governativo in Sardegna, ricordandosi forse di qualche occhiatina scambiata tanti e tanti anni addietro, quando egli era ancora studentello all'istituto. Figurarsi che orrore aveva provato lei, Nicoletta Spoto, a una tal richiesta e come s'era affrettata a rifiutare, tanto più che già erano avviate le prime pratiche per il matrimonio con Ignazio Capolino. S'era sentita voltare il cuore in petto a questa notizia inattesa, s'era fatta certo di mille colori e certo s'era tradita con quella donna di cui già conosceva la relazione segreta e illecita col padre. Non le aveva detto nulla, ma quando Aurelio, dopo la lunga udienza, era ritornato in salone, lei, tutta accesa in volto, lo aveva accolto apposta con premure esagerate, ricordandogli i giorni passati insieme, i giochi e le confidenze, e più volte, con gioia, aveva veduto colei mordersi il labbro e impallidire. Dianella sperava che Aurelio, almeno quella volta, avesse compreso. Lo aveva subito scusato in cuor suo del tradimento, di cui non poteva aver coscienza, non credendo di poter ardire di alzar gli occhi fino a lei, ma intanto... Ah, proprio a quella donna lì, sotto ogni riguardo indegna di lui, era andato a pensare. E il rifiuto di quella donna le era sembrato quasi un'offesa diretta anche a lei. Però egli era stato a Parigi. La vivacità, la capricciosa disinvoltura di Nicoletta Spoto avevano forse acquistato allora un gran pregio agli occhi di lui, ricordandogli probabilmente le donne conosciute e ammirate colà. Assorta in questi pensieri, Dianella s'era seduta sotto un ulivo sul ciglio del profondo burrone e guardava la dirupata costa di rimpetto, dove stava pascolando una greggiola di capre scesa dalle terre di Platania. Alla fine sopraggiunse Mauro Mortara. «Vi siete sentita male?» le domandò cupo, senza guardarla. «No, no, niente», gli rispose, schermendosi con le braccia dalle zampe e dalle linguate dei cani e sorridendo mestamente. «Un po' stanca». «Qua!» gridò forte Mauro ai tre mastini perché la lasciassero in pace. E subito quelli restarono come impietriti dal grido. Dianella sorse in piedi e si chinò a carezzarli di nuovo in compenso della sgridata. «Poverini, poverini!» «Se volete venire», propose Mauro, «a vedere la stanza del generale, ho tanta curiosità». Era impacciata nel parlargli, non sapendo ancor bene se dargli del voi o del tu. «Vostro padre è partito?» «Sì, sì», s'affrettò a rispondergli. E subito si pentì della fretta che poteva dimostrare in lei quel sollievo stesso che provavano tutti quando il padre era assente. «Ad Aragona», disse, «si sono ribellati i solfarai, bisognerà mandarci soldati e carabinieri». «Piombo, piombo», approvò Mauro subito, scuotendo energicamente il capo. «Vecchio come sono». «Forse», si provò a dire Dianella, ma il Mortara la interruppe con una sua abituale esclamazione. «Oh, mala santissima! Lasciatevi servire!» Non ammetteva repliche, Mauro Mortara. Nelle sue perpetue ruminazioni vagabonde tra la solitudine della campagna, si era a modo suo sistemato il mondo e ci camminava dentro, sicuro, da padre eterno, lisciandosi la lunga barba bianca e sorridendo con gli occhi alle spiegazioni soddisfacenti che aveva saputo darsi di ogni cosa. Tutto ciò che accadeva doveva rientrare nelle regole di quel suo mondo. Se qualche cosa non poteva entrarci, egli la tagliava fuori o fingeva di non accorgersene. Guai a contraddirlo. «Oh, Mara Santissima, lasciatevi servire! A che pretendono? Voglio sapere cosa pretendono! Dobbiamo tutti obbedire, dal primo all'ultimo, tutti! E ognuno stare al suo posto e guardare alla comunità! Ma perché queste pezze di galera, figli di cani ingrati e sconoscenti, debbono guastare a noi vecchi la soddisfazione di vedere questa comunità, l'Italia, divenuta per opera nostra quello che è? Ma che ne sanno di cosa era prima l'Italia? Hanno trovato la tavola apparecchiata, la pappa scodallata, e ora ci sputano sopra, capite? E intanto guardate, Tunisi è là». Si voltò verso il mare e col braccio teso indicò, fosco, un punto nell'orizzonte lontano. Dianella si volse a guardare senza comprendere come c'entrasse Tunisi. Ella lo lasciava dire e non l'interrompeva mai se non per approvare tutti quegli sproloqui patriottici che egli le faceva. «È là!» ripeté Mauro fieramente. «E ci sono i francesi là! Ce l'hanno presa a tradimento! E domani possiamo averli qua in casa nostra, capito? Vi giuro che non ci dormo. Certe notti mi mordo le mani dalla rabbia. E invece di impensierirsi di questo, quei mascalzoni là pensano a fare scioperi, ad azzuffarci tra loro. Tutta opera dei preti, sapete? Schiuma di ogni vizio, abissi di malezia. Soffiano nel fuoco sotto sotto per smembrare di nuovo l'Italia. I sanvedisti, I zambelisti, io devo guardarmi davanti e dietro perché me l'hanno giurata e mi contano i passi. Ma com'è? Le spese ci perdono. Guardate qua. E mostrò a Dianella i due pistoloni napoletani che gli pendevano dalla cintura.